morte in van cercai. Questa si sa che ho vesto, vi dico, che mio noi la mia patria ho difeso. La sorte a nostrarmi nemico, corne a vano te forti l'ardir. A mio pio nella polve disteso, a quel re da più colpi trafito, c'è la morte la foglia, e te dito. Oh!